Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo è il podcast di Effetto Giorno, al microfono Simone Spezia, per la parte tecnica oggi Roberta Frisani, che ci ha anche accompagnato in realtà nella diretta di oggi. I nostri contatti per consigli, idee, critiche, anche contumeli eventualmente, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la pagina Facebook e il nostro sito www.radio24.it, dove potete tra l'altro iscrivervi. C'è anche una sezione addirittura My Radio 24, dove potete mettere i vostri podcast preferiti, i vostri aggiornamenti preferiti, e potete anche commentare direttamente sul sito. È una di quelle rare giornate nelle quali possiamo considerare che ci sono tre macro temi. Uno è quello del lavoro, perché ci sono i dati di oggi sulla disoccupazione che non sono per nulla buoni, un 12,7%, questo il livello raggiunto, 44.000 occupati in meno in febbraio, e 42.000 di questi 44.000 sono donne. Ma c'è anche un altro tipo di lavoro, un tipo di lavoro che assomiglia di più allo schiavismo. 400.000 lavoratori e lavoratrici che sono sfruttati all'interno dei campi agricoli, di cui 100.000 in condizioni di vero e proprio paraschiavismo. La voce è quella di Roberto Iovino, che ha coordinato la redazione di Agromafie e Caporalato, un rapporto della CGIL. Perché abbiamo parlato con lui? Perché oggi c'è stata un'altra operazione contro il caporalato. Si parla, e sentiremo la cronaca, di bambini e donne di fatto appunto ridotti in schiavitù, chiusi dentro baracche ed utilizzati nei campi. E siamo in Sicilia. L'altro tema è un tema di esteri. Né lui né il premier Ahmet Davutoğlu escludono che si possa trattare anche di un attacco terroristico. La voce è di Marco Barbonaglia, che nella sua corrispondenza da Istanbul, dove ci ha raccontato di questo enorme blackout che sta sconvolgendo la Turchia dalla mattina, né il ministro dell'energia né appunto il premier hanno escluso che si tratti di un attacco terroristico. Nel frattempo in Turchia stanno succedendo altre cose, su quello vi rimandiamo ai giornali radio, ossia il sequestro di un magistrato che stava indagando sulla morte di un 14enne durante le manifestazioni di Gezi Park. Stanno circolando in rete, e se volete potete vedere le foto di questo magistrato sequestrato da un gruppo di estrema sinistra e con una pistola puntata alla tempia. L'altro tema è la corruzione. E abbiamo chiesto gli atti ufficialmente al Procuratore della Repubblica di Napoli per capire se ci sono appalti che possono essere eventualmente commissariati. Voce che abbiamo imparato a riconoscere, Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Stiamo parlando ancora delle vicende di Tangenti, che ha portato a mettere le manette al sindaco di Ischia e che sta colpendo e coinvolgendo tanto il mondo delle cooperative quanto un pezzo del Partito Democratico. Oggi parliamo di corruzione anche perché ci sono dei dettagli interessanti e dei numeri interessanti che arrivano da uno schema di collaborazione che riguarda in particolare i lavori per Expo, uno schema di collaborazione messo in piedi dall'OCSE insieme proprio all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Iniziamo però, e iniziamo dal lavoro e dai dati. Proprio quando speravamo che il peggio fosse alle spalle, l'Istat diffonde dati sul mercato del lavoro a febbraio che gelano le aspettative di chi già vedeva le prime avvisaglie di primavera. La serie positiva di dicembre e gennaio sembra infatti essersi arrestata, e la frenata è dovuta quasi esclusivamente alla diminuzione del lavoro delle donne. Gli occupati di sesso maschile sono sostanzialmente stabili, mentre quelli di sesso femminile diminuiscono in un mese di 42.000 unità su 44.000. Il tasso di occupazione è al 55,7%, in calo di 0,1 punti sul mese, anche se in crescita dello 0,2 sull'anno. Contemporaneamente, il tasso di disoccupazione è tornato a salire al 12,7% a febbraio, dopo il calo di dicembre e l'ulteriore diminuzione di gennaio. Anche in questo caso pesa la dinamica del lavoro femminile. Il tasso di disoccupazione delle donne cresce al 14,1%, mentre per gli uomini è all'11,7%. Sale anche il tasso di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni al 42,6% a febbraio. E l'Italia è purtroppo terza in Europa per disoccupazione giovanile, battuta soltanto dalla Grecia e dalla Spagna. Ma per il ministro del Lavoro Poletti i dati non contraddicono i segnali positivi, come il consolidamento, ha detto, della ripresa della fiducia da parte delle imprese e dei consumatori. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come si diceva, lavoro che non c'è, e appunto 44.000 occupati in meno, e lavoro che a volte, quando c'è, è un lavoro sostanzialmente schiavistico. Succede a Catania, 9 persone arrestate, e donne e bambini rumeni, e cittadini comunitari come noi, ridotti sostanzialmente in schiavitù. Oggi no, adesso non so anche mai. Le testimonianze delle vittime e le intercettazioni che abbiamo ascoltato sono state decisive per incastrare l'organizzazione accusata ora di associazione a delinquere dedita allo sfruttamento di braccianti stranieri. I carabinieri di Catania hanno arrestato 9 persone. La manodopera veniva ingaggiata nel paese d'origine, ossia la Romania. Le vittime, anche donne e minori, venivano poi condotte in Italia e costrette al lavoro nei campi con turni e ritmi massacranti. I lavoratori avevano alloggi di fortuna in pessime condizioni igienico-sanitarie, venivano sottopagati e non potevano contare neanche su minime tutele. Vivevano, hanno raccontato, in uno stato di sudditanza psicologica, con la costante minaccia di perdere il lavoro e quei pochi soldi che guadagnavano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di questo abbiamo parlato con Roberto Iovino, che ha coordinato la redazione, come si diceva, dei due rapporti, agromafie e caporalato, per la FLAI CGIL. Fa parte, tra l'altro, dell'osservatorio Placido Rizzotto, e a lui abbiamo chiesto quanta gente sia in queste condizioni. Un elemento al quale prestare particolarmente attenzione adesso, e soprattutto adesso, sempre, ma soprattutto adesso, perché si avvicina l'estate e ovviamente il caporalato, soprattutto in agricoltura, aumenta. Purtroppo tante. Noi nel nostro rapporto facciamo una stima di circa 400.000 lavoratori e lavoratrici che sono sfruttati all'interno dei campi agricoli, di cui 100.000 in condizioni di vero e proprio paraschiavismo. Parla di sfruttamento lavorativo nei campi, ma nel caso delle donne addirittura di sfruttamento sessuale, di marginalità sociale, di sottrazione dei documenti. È un fenomeno assolutamente indegno per un paese civile come il nostro. È un po' quello che noi definiamo il lato oscuro del nostro Made in Italy. E l'agricoltura, purtroppo, ancora oggi, come in passato, presenta fenomeni di gravissimo sfruttamento e di caporalato. Finalmente, però, il caporalato, dopo una lunga battaglia sindacale nel 2011, è diventato un reato penale, e l'operazione di oggi si inserisce all'interno di un'azione di repressione sulla base di denunce del sindacato dei lavoratori, che vede in questo momento le forze dell'ordine e la magistratura impegnati nella repressione di questo deprecabile fenomeno. Senta, addirittura in questo caso è un fatto che probabilmente è reso possibile anche dalla banale questione che la Romania è nell'Unione Europea. Addirittura andavano, come dire, a pescare direttamente nel paese d'origine. C'è questa immagine un po' distorta nel nostro paese, che ad essere sfruttati sono solo i migranti che vengono da alcune aree del mondo, penso all'Africa piuttosto che all'India. Non è assolutamente così. La maggior parte dei lavoratori sfruttati, sulla base anche un po' dell'inchiesta che abbiamo fatto, sono cittadini europei, hanno gli stessi identici diritti e doveri nostri. Sono rumeni, sono bulgari, polacchi, e anche in questo caso c'è un vero e proprio fenomeno di tratta internazionale della manodopera che riguarda sempre di più lo spazio comunitario. Si pensi solo al fatto che in tutta l'Unione Europea sono 880.000 i lavoratori posti in condizioni di schiavitù. Siamo a parlare di corruzione, innanzitutto con la vicenda di Ischia, con l'arresto del sindaco di Ischia, iniziando dalle carte. Laura Viggiano ci racconta quali sono le novità. dalle carte quello che si evince è che sicuramente c'è un lavoro ancora in corso e che quindi riceverà ulteriori sviluppi. Intanto insomma, si parla di fondi neri in Tunisia, soldi tornati in Italia dalla Tunisia in un carrozzino. Nelle intercettazioni spuntano i nomi di politici come Massimo D'Alema e Lotti per il PD, ma anche nomi di altri partiti, insomma di persone che non risultano al momento indagate. Emerge un sistema affaristico organizzato e gestito dalla cooperativa CPL Concordia, passato sotto la lente della Procura di Napoli e dei Carabinieri del No, e nell'ordinanza viene sottolineato il meccanismo di un sistema collaudato. In 224 pagine firmate dal GIP Amelia Primavera si fa riferimento ad una strategia aziendale fatta di relazioni patologiche con uomini politici e istituzioni spesso schermati attraverso triangolazioni con fondazioni. In questo contesto viene inserita la conversazione intercettata in cui il dirigente della CPL Concordia, Francesco Simone, chiama in causa Massimo D'Alema. Il GIP la considera rilevante, in particolare perché si fa riferimento a forze di polizia e politici, ma soprattutto perché si fa una netta distinzione tra chi al momento debito si sporca le mani e chi no. In questo contesto si parla dell'acquisto di 2000 bottiglie di vino prodotte da un'azienda che fa riferimento a Massimo D'Alema e di centinaia di copie di un libro dell'ex premier presentato anche a Ischia, evento particolarmente importante da un punto di vista politico per il sindaco Giorgi Ferrandino, arrestato ieri per corruzione e che viene considerato dagli inquirenti il factotum della CPL Concordia. A finire sotto i riflettori è anche un ex deputato del PDL, Pasquale Vessa, per IPM, infatti avrebbe ricevuto una tangente da 1.300.000 euro per favorire l'assegnazione di appalti in provincia di Salerno. La mazzetta sarebbe stata coperta da una consulenza fittizia anche in questo caso e non è specificato nell'ordinanza se questa sia o meno indagato. L'indagine guarda l'attività della società nel meridione in particolare e fa riferimento anche ad affari con la criminalità nel casertano, in particolare con i casalesi. Alcuni mesi fa, lo ricordiamo, anche il pentito Iovine ha parlato di subappalti e affari legati alla metallizzazione dell'agro casertano. Interviene anche il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone. È interessante qua tanto la notizia che dà, ossia il fatto che sono stati richiesti proprio per la verifica di questi appalti, sono state richieste le carte alla Procura di Napoli, ma dall'altra parte dice attenzione, c'è un faro da una parte sulle COP, dall'altra parte sui metodi di finanziamento delle fondazioni e dei partiti. Noi abbiamo chiesto gli atti ufficialmente al Procuratore della Repubblica di Napoli per capire se ci sono appalti che possono essere eventualmente commissariati. Lo verificheremo, io sono abituato a leggere gli atti, per il momento ho letto solo i giornali. Il ruolo delle cooperative purtroppo non è la prima volta che abbiamo visto cooperative coinvolte negli scandali. Ormai le cooperative sono diventate veri e propri operatori economici come gli altri. Questo un po' dispiace, ma è un po' nelle cose. La trasparenza, io credo che la trasparenza sia fondamentale. Quanto più le cose sono chiare, tanto più si possono evitare, diciamo, equivoci, si possono evitare problemi, si possono evitare rischi di interpretazione anche malevoli. Ed è per questo che, per esempio, io credo che sia necessario, sia opportuno fare una legge che riguardi i meccanismi di finanziamento, i meccanismi, cioè la pubblicità soprattutto dei finanziamenti alle fondazioni, ai partiti, alle associazioni, che questo rischia, così si evitino ogni sorta di strumentalizzazione. Le cose che sono regolari, stop. Come prevedibile, ci sono reazioni politiche. Il caso Ischia imbarazza il Partito Democratico e lo espone a nuovi attacchi da parte del Movimento 5 Stelle, anche perché l'arresto di Giosi Ferrandino nei mesi scorsi, sempre in Campania, è stato preceduto anche da altre vicende giudiziarie che hanno interessato amministratori democratici. Poi ci sono le intercettazioni telefoniche che hanno mandato su tutte le furie Massimo D'Alema. L'ex premier, che non è indagato, minaccia querelle e nega di aver ricevuto favori dalla cooperativa rossa e dagli altri personaggi finiti al centro dell'inchiesta. Nel partito c'è chi giudica inquietante la vicenda di Ischia. Per ora la linea dettata da Renzi è quella di considerarla un caso circoscritto. A chiedere di non generalizzare è anche il presidente Demma, Orfini, che pur giudicando grave quanto emerso dalle carte dell'inchiesta, sostiene che a suo giudizio nel PD non c'è una questione morale. Non la pensa così invece il Movimento 5 Stelle. Gliene arrestano uno al giorno, è per questo che il PD non vuole fare una legge contro la corruzione, attacca Di Maio. Proprio sulla legge anticorruzione, Grillo ha voluto un referendum fra gli iscritti al suo blog, che oggi dovranno decidere come i senatori grillini dovranno votare sul provvedimento all'esame di Palazzo Madama. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre sul tema della corruzione, ad un mese da Expo, oggi un incontro per fare il punto su uno schema di collaborazione inaugurato tra OCSE e proprio l'Autorità Nazionale Anticorruzione, uno schema proprio di verifica e di controllo degli appalti, di trasmissione delle informazioni, di misurazione, se vogliamo, anche della trasparenza. Valeria De Rosa ha seguito questo incontro. Questa mattina il punto sul protocollo d'intesa tra l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'OCSE, l'esperienza di entrambe le organizzazioni per promuovere la trasparenza e per studiare la eventuale possibilità di esportare in altri eventi internazionali quanto si è fatto in Italia proprio con l'istituzione dell'autorità in merito ad Expo. Questo perché in tutti i paesi OCSE i costi legati all'illegalità negli appalti sono altissimi, lo ha ricordato Nicola Bonucci, che è direttore del Dipartimento Legale dell'OCSE. Sentiamolo. Io lavoro all'OCSE, ma in quanto italiano posso dire due cose. La prima è che l'Italia ha un livello di corruzione alto, però l'Italia è anche un paese in cui se ne è parlato sempre molto di più che in altri paesi. Certe volte, come l'ho detto anche nel mio intervento, non parlarne o non vederlo è anche un modo di non affrontare il problema. L'Italia ha cercato in diversi modi di affrontare il problema e in questo momento credo che ci sia un momento topico in cui c'è un vero consenso nazionale, direi, sul fatto che il livello di corruzione in Italia non è più accettabile. In merito al lavoro svolto dall'ANAC e analizzato dall'OCSE, possiamo dare qualche numero sulle verifiche delle procedure d'appalto da parte dell'unità operativa speciale. Al 16 marzo erano stati controllate 153 procedure d'appalto, per 109 sono stati rilevati profili di illegittimità e o opportunità, ed è interessante notare che sul numero totale 92 riguardavano procedure o bandi e tra queste 80 non risultavano conformi. Ai controlli dell'ANAC si aggiungono e si intrecciano quelli della Prefettura di Milano sulle infiltrazioni mafiose, 4.450 circa le pratiche riferite a Expo, e nella quasi totalità dei casi non sono state riscontrate connessioni con la criminalità organizzata. Sono state però effettuate 79 interdittive per 54 aziende che a questo punto non possono lavorare su Expo, ma in generale in Italia. Siamo all'estero, iniziando dalla Turchia, la corrispondenza dal blackout di Marco Barbonaglia. È ancora senza corrente gran parte della Turchia. Secondo il quotidiano turco Hürriyet si tratta del più grande blackout degli ultimi 15 anni. La gran parte del paese è bloccato, si parla di 20 città medie o grandi, o forse più, si parla di 44 province su 81 senza energia elettrica da questa mattina alle 10.30, alle 9.30 ora italiana. Anche a Istanbul sono senza luce, quindi tram, metropolitane, Marmaray, il treno ultramoderno che passa sotto il Bosforo, è tutto fermo. La metropolitana è stata evacuata, sui social si vedono le immagini e i video dei passeggeri che vengono accompagnati fuori dal personale con le luci d'emergenza accese, ma in sostanza è appunto tutto bloccato, con le conseguenze che si possono immaginare, per esempio su di una città come Istanbul, abitata da un numero di persone che, al di là delle stime ufficiali, alcuni calcolano tra i 15 e i 18-20 milioni di persone. Anche negli aeroporti ci sono grossi problemi, molti radar sono fermi, quindi anche per il traffico aereo ci sono grossi problemi. Il ministro dell'energia Taner Yildiz ha specificato che un team sta lavorando per scoprire le cause del blackout, che sarebbe stato originato da un problema pare nell'area della costa Egea. Tuttavia né lui né il premier Ahmet Davutoğlu escludono che si possa trattare anche di un attacco terroristico. Quello che si può dire per ora è che nella provincia orientale di Kocaeli, uno dei distretti industriali più importanti del paese, molte fabbriche hanno dovuto interrompere la produzione, e proprio in questo distretto alcuni media locali parlano di una forte esplosione, ma dal momento non si sa nulla di più. Nel frattempo quello che posso dire è che l'hashtag There is no electricity è improvvisamente, ovviamente, balzato in cima alla classifica dei più gettonati nel paese. Altro tema di giornata, oltre a quello dell'Iran, al fatto che si è sostanzialmente raggiunto un accordo per il nucleare iraniano tra l'Iran e la comunità internazionale, con l'idea di arrivare ad un accordo definitivo entro giugno, e però ci sono segnali di apertura da questo punto di vista, sono le elezioni presidenziali in Nigeria. Elezioni presidenziali che vedono in svantaggio al momento il presidente uscente, Goodluck Jonathan, e vedono in vantaggio un presidente che, a differenza di Goodluck Jonathan, che è cristiano, è musulmano. Sullo sfondo di tutto questo, naturalmente, c'è Boko Haram, l'organizzazione estremista islamica, che tra l'altro fa perno, se vogliamo, anche sull'ISIS e la lotta a Boko Haram. Su questo abbiamo sentito Emilio Manfredi, che è un ricercatore consulente per International Crisis Group. Che cos'è International Crisis Group? È un'organizzazione no profit che si occupa di prevenzione dei conflitti. Sentiamo l'intervista a Manfredi. Abbiamo ancora dei dati parziali che vedono in vantaggio il candidato dell'opposizione, oltre che il candidato musulmano Buhari, perché se è vero che questo paese è diviso dal punto di vista religioso e etnico, si è molto polarizzato appunto su questa campagna tra il cristiano uscente, il presidente, l'aspirante, il presidente musulmano entrante. In realtà, secondo me, il gioco più pericoloso e da seguire è quello proprio del partito al governo, che al governo da quando la Nigeria è uscita dalle dittature militari nel 99, un partito al governo, il PDP, che di fatto raccoglie una serie di interessi, di elite, di clientele politico, economico, militari, e che per la prima volta viene sfidato da un partito d'opposizione forte, che è questo APC, All Progressive Congress, che è stato capace di mettere insieme appunto dopo 16 anni per la prima volta un'opposizione unita, è unita proprio contro le pessime, secondo l'opposizione, politiche portate avanti soprattutto dal presidente uscente Goodluck Jonathan. Vogliamo approfondire brevemente quello che è l'aspetto più rilevante forse per noi e strategico da un punto di vista internazionale, che è la lotta agli estremisti islamici di Boko Haram, un fronte che tra l'altro ha messo in atto un progressivo avvicinamento a questo grande polo di attrazione terroristico che è l'ISIS. Manfredi, da questo punto di vista, come è stata la campagna elettorale e che cosa possiamo attenderci da un'eventuale vittoria di Muhammad Buhari? Prego. Ma la campagna elettorale è stata chiaramente centrata sulla lotta a Boko Haram e su ciò che il presidente uscente Goodluck Jonathan ha fatto o non ha fatto in questa lotta, nel senso che il voto è stato spostato di 6 settimane perché dopo 5 anni di mancanza o incapacità di portare avanti una campagna militare contro l'avanzata territoriale di Boko Haram nel nord della Nigeria, soprattutto nel nord-est della Nigeria, infine, poche settimane prima del voto, il presidente nigeriano ha lanciato, insieme ai paesi della regione, soprattutto al Chad, in maniera abbastanza scoordinata questa campagna militare che si è proposta in 6 settimane di liberare le aree conquistate da Boko Haram, una campagna di cui non si può nulla dire in termini negativi dal punto di vista militare. Quello che ci si può chiedere è se non avesse come scopo principale il fatto di offrire alla popolazione una pillola dorata che era quella: eccomi qua, sto perdendo le elezioni, faccio una campagna militare contro Boko Haram che non ho fatto per 5 anni, votatemi perché adesso sono diventato un buon presidente, quando i sondaggi davano il presidente uscente Goodluck Jonathan in estrema difficoltà di voti. Dunque, sì. Così le due vicende, cioè la vicenda politica generale in Nigeria e la vicenda della lotta e dell'avanzata degli islamisti radicali di Boko Haram, sono intrecciate ancora di più dando adito a molte teorie, tra cui alcune non particolarmente favorevoli alla figura del presidente uscente. Per chiudere, un capitolo dedicato a Torino, città che oggi ospita due eventi. Innanzitutto l'apertura, la riapertura, anche se proprio di riapertura non si può parlare, del Museo Egizio. Filomena Greco. In realtà non riapre perché non ha mai chiuso, effettivamente. Questa è una delle peculiarità più particolari di questi lavori che sono durati 3 anni e mezzo, 5 se si considera anche la progettazione. Di fatto il museo non ha mai chiuso, riapre i battenti, però la versione nuova, rinnovata del Museo Egizio di Torino comincerà da domani e comincia con un sold out, un tutto esaurito per le prenotazioni online. Ecco, quindi dopo questo periodo di tempo si mette la parola fine ad un intervento che è costato una 50 milioni di euro, fondi garantiti per metà dalla Compagnia di San Paolo, per l'altra metà dalle istituzioni locali, da Fondazione CEPT. L'obiettivo del museo è sfondare quota 500 milioni di visitatori, puntare a 750 mila e così scalare, insomma, la classifica dei musei più visitati d'Italia. Tempi e costi sono stati rispettati, ha sottolineato con grande soddisfazione la presidente del museo Evelina Cristillen, che presiede appunto la fondazione. Una case history importante, come ha sottolineato anche il ministro Dario Franceschini, il ministro della cultura, simbolo di una collaborazione tra il pubblico e il privato che, ha detto il ministro, può essere un buon esempio, un caso di successo da esportare anche in altre città d'Italia. Dunque, dicevamo, un museo completamente rinnovato che raddoppia la sua superficie, passa da 5 a 10 mila metri quadrati, si trasforma da museo antiquario, un museo quindi di gusto ottocentesco, un museo invece archeologico con allestimenti di grande impatto come lo statuario, con i sarcofagi restaurati, con i reperti suggestivi della civiltà egizia, nel cuore della Galleria Sabauda, che è un palazzo seicentesco che è stato restaurato e riadattato proprio per ospitare su 3 piani il nuovo Museo Egizio di Torino. E visto che siamo a Torino, Torino, come si diceva, ospita due grandi eventi, questa sera ospita un amichevole di lusso per l'Italia, l'Italia che gioca contro l'Inghilterra. Dario Ricci. Speriamo intanto in una difesa meno mummificata, per rimanere in tema rispetto a quella che abbiamo visto a Sofia. Arriva l'Inghilterra, per quanto riguarda la partita, amichevole di lusso. Le novità più interessanti per gli azzurri, l'esordio dell'empolese Val di Fiori, una delle realtà più belle nella Serie A per quanto riguarda i centrocampisti. Tra gli inglesi, occhio ad Harry Kane, già il nome è tutto un programma. Simone, il centravanti 21enne del Tottenham, che tanto sta facendo anche in nazionale, già un gol all'esordio, questa volta parte per la prima volta dal primo minuto schierato da Roy Hodgson. E poi sarà importante il contorno, l'accoglienza per Conte, che torna nello stadio che fu suo e dove ha vinto ben 3 scudetti. L'accoglienza sembra buona, e poi anche questa polemica sugli scudetti, sul conto degli scudetti dopo Calciopoli. La federazione si è già provveduto a coprire tutti i numeri evocanti il 32, gli scudetti che la Juventus ritiene di aver vinto sul campo sono stati tutti coperti con pacifici striscioni con la scritta benvenuti. Ora staremo a vedere quanti 32 spunteranno sulle tribune rispetto ai 30 che sono gli scudetti bianconeri dopo Calciopoli. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. Vi raccomando, come sempre, i contatti: effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook e il sito www.radio24.it. Andatelo a visitare, girateci, cercate di capire anche voi come funziona il nostro nuovo sito, anche se è abbastanza intuitivo a dire il vero. Lo potete fare anche da mobile, perché ossia da uno smartphone oppure dal vostro tablet, perché è stato ottimizzato esattamente per questo. Potete commentare direttamente anche nelle pagine delle trasmissioni se volete. Insomma, è un sito rinnovato e ci interessa sapere che cosa ne pensate. Io intanto vi ringrazio e ci risentiamo domani alle 13.